A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, ma ce l'hai tu. Non avete mai lavorato in vita vostra, tra le rompe i coglioni e quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma sei dimagrito, cosa c'hai? Ti fai troppe pippe? Ma come troppe bravo, pippe? Bravissimo Lebrando, bravissimo. No, bravissimo. Ma non è che la masturbazione fa dimagrire. Ma che teoria è la tua? Non ho capito che la masturbazione. Ti fai troppe pippe? Amico mio. Buonasera a tutti voi. Ci voleva una voce ragionevole in questa trasmissione. Ma come fai a dire che gli africani non hanno la cultura del lavoro? Basta guardarli, pistola, basta guardarli. Non hanno la cultura del lavoro. Tant'è che vengono qua a rompere i coglioni a noi. Non è che non hanno voglia, è che non sanno come far, dove andare. Quindi il problema è questo, è che in Africa manca la cultura del lavoro. E quindi manca la cultura, come manca a te, caro Parenzo. Manca la cultura, tu sei un pistola. Cazzo dici? Noi lo vediamo dalla mattina alla sera, dalle 5 alle 7 di sera. Cazzo dici? Rincoglionito di merda, ricchione vecchio. Comunque è una trasmissione irriformabile adesso. Shalom David! È una trasmissione non più gestibile, ormai fuori controllo. Ti ha detto shalom, allora, ti ha detto shalom. Ma culo, ma avete stufato tutti quanti! In questo momento scambia circa 50 volte gli utili cumulati, ovvero ci vorranno 50 anni per giustificare la capitalizzazione dei titoli europei. Se andiamo a guardare sui titoli, il fenomeno... Oh cazzo! Eh no, attenzione, pronto? È caduto qualcosa? No, dico, è vero che il programma che segue ci ha abituato anche altri... Alessandro, ci sei? È vero. È vero che il programma che segue in collegamento da Roma, sì. David Parenzo sempre più convinto che questa trasmissione debba chiudere in battenti giù questo è il programma che segue, purtroppo, come direbbe Barisoni. Una giornata come oggi, 14.844 nuovi positivi, 846 morti. Rezza dice come mai? Il dato sui decessi è drammatico. David Parenzo, sì. Il Sole 24 Ore, Roma. Chissà perché quando il governo deve prendere provvedimenti non voglio fare dietrologia, non voglio fare il gottardo della situazione, ma come mai alla vigilia di provvedimenti più restrittivi il numero dei morti schizza in alto. Inasprire la stretta, come i limiti mai? Della zona gialla non come bastano mai? Dice il CTS. David come Parenzo, CTS? Il Sole 24 Ore, Roma. In collegamento da Padova, Alberto Gottardo, eccoci qui. Io credo che Parenzo con questi dati ci si arrabba. Secondo me Natania la sera gli rilegge, dice bravo Alessandro, non sì. C'è Arcuri ha detto che arriva il vaccino. Salta sull'attenti. Non c'è nulla, di cui eccitarsi. C'è il dramma di una situazione che quello voi non capite. Passa in zona rossa. Voi, oddio, ecco il durello. Sottovalutate il dramma che stiamo vivendo e ne pagherete le conseguenze. Dimmi, chiamami Crisanti. E ne pagherete le conseguenze. Siete due negazionisti ormai. Siete due negazionisti. Sbruffoni, peraltro. Perché il signore lì veneto, nipote del democristiano, sì, sindaco di Padova, che ha appena parlato, l'unica trasmissione in cui ci sono insulti e attacchi al passato, cose pazzesco. No, ma soltanto per dire questo, di questo. Nell'armadio. Basta semplicemente una persona ha avuto l'ardire di dire in questa trasmissione: voglio ricordarlo, voglio prendermi il Covid. Cioè, lui vuole mettere sotto contratto il coronavirus e poi ha aggiunto: lo voglio portare in radio. La mia testimonianza epocali. Sai che se ti dico il coronavirus, sai che se ti dico Parenzo sei un idiota, non puoi neanche quelle larmi. Lo so. Idiota, ma di un Parenzo. Ma chi è? Io ti domando uno che dice: voglio prendermi il coronavirus per portarlo in radio, io ti dico che sei come un idiota, fosse un ospite. Secondo me sei un coglione. E la magistratura di tutto il mondo, secondo me, mi darà ragione. Allora, giù. Possibile che litigate dopo due minuti? Che no, perché mi manda il sangue al cervello quello che voglio invitare l'ospite. Sei un idiota. Prendere il coronavirus e portarlo in trasmissione. Come dice Feltri, un idiota. Allora, ragazzi, iniziamo dalla vicenda Fedez. Abbiamo iniziato già con questo show di questi due. Pagliaccio. Uno collegato, due padovani idiota collegato, uno da Roma, totale. Uno da Padova. Allora, la questione Fedez. No, ti dirò di più. Sabato Parenzo è a Padova, io vado a Roma. Giù. Allora, ragazzi, oggi Fabio Volo ha attaccato Fedez sulla questione della beneficenza. Vi dirò subito che per me sono tutte cazzate. Cioè, non esiste un protocollo, non esiste un modo per fare beneficenza. Se tu vuoi regalare in stile Achille Lauro, quello, diciamo, una non figura. Achille Lauro il cantante, Achille Lauro quello l'armatore, che per chi se lo ricorda, ex sindaco di Napoli, ex padrone, diciamo, di Napoli. Se tu vuoi regalare del denaro contante, lo fai. Perché c'è il protocollo Parenzo che dice che è una caponata. La decenza, chi la decide? Che cazzo dici? È indecente. Partecipi alla Zanzara e parli di decenza, ma vaffanculo. Ma al bando la decenza. Non sei tu a decidere cosa è decente e cosa non è decente. Non è Fabio Volo, mi dispiace. Fa schifo. Pensa te, ma cosa? Perché dare 5.000 euro? Ma che manco suoi per giunta. E neanche suoi. Ma vaffanculo, e neppure dai. Suoi cafonata dell'anno. Ma quale cafonata? Ognuno dà i soldi come vuole, cafonata pazzesca. Poi lo accusano perché girava il Lamborghini. Guardate che quando io sono andato a fare il programma dal signor Fedez, ecco perché lo difendo. Io lo difendo, l'ho attaccato per una vita, ti posso dire, lo attacco ogni volta perché ti ha invitato della sua trasmissione. Ma quanto ti ha dato per venire 5.000 euro? Ma che cazzo dici? Dei fan? No, Giù tutti e due. Allora, la questione fondamentale è questa: ognuno fa beneficenza come vuole. Lo accusano perché è andato in Lamborghini in giro per Milano a dare questi soldi dentro delle buste, non mi ricordo che cos'era. Ho visto una cosa dorata, una carta dorata, una specie di carta regalo di Natale. La Lamborghini, quello la usa sempre. Usa la Lamborghini, ma cazzi non è suoi. Il problema la Lamborghini. Ma cazzi, no, perché l'insieme. Lo accusano, è andato in giro con ma la Lamborghini. Ma è tutto l'insieme che è una cafonata. Ma perché? Che in diretta ma chi manda, sei tu a decidere? Umilia queste persone dicendo che tieni 1.000 euro dei miei fan. Ma vergognati, perché prendi 1.000 euro e porta a casa. Ma che umilia, ma cafonata rara. Fabio Volo, uno deve decidere. C'è il protocollo su come fare beneficenza. Lo decidete voi due, lo decidete. Lo decide Fabio Volo, decide David Parenzo, lo decide gusto. Incredibilmente Alberto Cottardo che parla di decenza, una cosa mai vista, una cosa incredibile. Anche questo è strano, questo sì, questo dai. Cari ascoltatori, non faccio nomi e niente, secondo voi la beneficenza è una cosa che si fa privatamente, segretamente, tra me e la persona a cui diciamo, o è una cosa che deve essere, io divento matto, ragazzi, vi chiedo scusa. No, ma diventi matto, ognuno lo fa come vuole, c'è chi la fa in silenzio, c'è chi lo vuole dire anche per farsi pubblicità. Importante, se per io non faccio un cazzo di beneficenza, dunque non sono attaccato. Da questo punto di vista non me ne frega un cazzo, lo dico apertamente, ma chi la vuole fare, chi vuole dirlo, proclamarlo, lo può fare, chi se ne frega. Ma chi se ne frega se lo ha fatto il Lamborghini, se lo ha fatto con ma insieme è tutto l'insieme che ha fatto solo per farsi pubblicità. A parte e tu sei nella mente sua, sei nella sua mente. Che ma vuol no, dire? Ma è evidente, ma se no non lo fa in diretta social. Ma che... Cioè lui si fa la pubblicità sulla pelle di queste persone che stanno, che sono poveri, che sono indigenti. È Gottardo muto, è Gottardo muto. Che sono indigenti. È Gottardo muto. Dicendo, è una cosa che talmente è evidente che la capisce. Parenzo e Fabio Volo, per cui sai com'è. Culo, va. Cioè, persino loro lo capiscono. Perché pensavo, no? Ditemi voi, qui al, dove vado a fare la spesa, no? Sì. C'è un ragazzo lì davanti, c'è un ragazzo, sì. Ogni tanto io gli chiedo, hai fame, vuoi qualcosa? Faccio... Mi dimentico di fare delle story. Mi dimentico di fare delle story. Che dico, guardate, Fabio Volo sta dando la pizza a questo ragazzo che ha fame. Io divento matto, vi chiedo scusa. Sì, c'è quel moralismo. Bravissimo. Di fondo che è insopportabile, no, posso dirti. Di fondo c'è un moralismo contro un ganassa. È ma qua. Che cazzo Fabio dici? Volo, ma ognuno è una persona, fa quello che vuole. È più ma elegante a differenza di quella. Ma cosa c'entra? A me sta anche simpatico il rapper, figurati, che belle canzoni. Ma qui ha fatto una smargiassata. Ma non ha fatto nessuna smargiassata, ha fatto quello che si sentiva di fare. E anche se l'avesse fatto per pubblicità, per aumentare, che non ne ha bisogno, per l'ha fatto. Like, per i like o io chi perché lo segue, lui è un'azienda che vive di quella roba. Ma non ha bisogno, non gliene prendi, usa il povero clochard, la dipendente di McDonald's, per farsi mettendoli i cazzi sullo suoi stesso piano, tra l'altro sullo stesso piano, tra l'altro. Ma è arrivato il protocollo Parenzo, è incredibilmente il protocollo Gottardo, certo, per decidere, certo, come si fa beneficenza. Ma vergognatevi, sì. No, vergognatevi, ma non serve una grande intelligenza, vi dovete vergognare, come dimostra Gottardo, vi dovete capire. Vergognare, esatto, evidente, esattamente, no? Primo, esattamente, primo pezzetto dello scontro di ieri, Feltri Parenzo, no, ma perché sulla ragazza sentire? Stuprata era sulla già terribile in diretta, cioè, era terribile, sì, era uno scontro epico scontro, però certamente terribile. Tu la verità non sai neanche ma che cos'è la verità, pistola. Donne che hanno, ragazze che hanno sofferto, cosa sai tu della storia di quella ragazza? Prendere un bigolo, ma come ti permetti? Ma cosa dici? Guarda che è partita la frizione, hanno preso un bigolo, ma rispetto bigolo, per ragazze violentate per ore o bloccate sul letto, seviziate, ma che dici? Porta rispetto. E perché andavano lì a farti? Ma come, perché a prendere il bigolo? Ma come ti permetti? Ma che modo ma di parlare? Mi permetto di dire la verità. Ma quale verità? Tu, che non sai nulla della storia di queste ragazze. Quella è una vergogna. Hai detto una tu cosa un vergognosa. Vecchio, un vecchio coglione. Ma sì, io. Ci siamo rotti il cazzo. Viva l'anarchia. La Zanzara. Comunque figa, sono bruciato. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Guzzini, uno di noi. Guzzini, uno di noi. Forza Guzzini. Presidente della Confindustria, non macerata, di tutta la Confindustria. Forza Guzzini. Cusciani, ma una telefonata al quel filantropo del presidente di Confindustria Macerata non gliela fai, vero, oggi? Niente. E anche questo messaggio non passa, vero? Niente. Telefona, Cusciani, telefona, cazzo. Allora, di cosa stiamo parlando? Andiamo subito al sodo. Esatto. Spieghiamo. Chi è questo Guzzini? Caro Parenzo, caro Gottardo, è un signore che è un industriale, un imprenditore che è a Macerata, rappresentante della Confindustria, sì, editore, ecco, di questa radio, editore di questa radio. Vogliamo ascoltare quello che ha detto, sì, prima ma di guarda, giudicare. Secondo me, avendolo già, dice, sì, possiamo ragionarci un attimo su, perché l'abbiamo già ascoltato, forse lo possiamo dare per acquisito e passare all'altra notizia, che è il caso Regeni. Allora, dobbiamo sentiamo capire gli 007. Guzzini, audio di Guzzini. Stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente, che questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi, e lo stanno mettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po' stanchi di questa situazione e vorrebbero, sì, alla fine venire fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza. anche se qualcuno morirà, pazienza, apriti cielo, apriti cielo, costretto. Io poi la cosa che non sopporto, uno dice questa cosa perché la pensa, perché la pensa, molto gottardiano, sì, dice questa cosa, ha il coraggio di dirlo, ha il coraggio di dirlo, l'abbraccio mortale di Gottardo a Guzzini, che ha detto indubbiamente una cazzata, diciamolo, ma non ha detto una cazzata, però l'abbraccio mortale di solidarietà a Guzzini, io non volevo io ti assicuro, ora mi tocca dare solidarietà a Guzzini, che ha detto indubbiamente una stronzata, ha detto indubbiamente una cazzata, ma ora con l'abbraccio mortale di Gottardo è la fine. Deve fare i ragionamenti di Guzzini. Ragionamento, pensa te. Però sai perché ha fatto questo ragionamento qua? Perché lui è un uomo di potere, è uno che sa cosa vuol dire prendere le decisioni. Senti come aggrava la situazione. No, ma ha ragione, siccome sa che la gente in Italia, le persone purtroppo avranno una crisi economica grave se restano ammazzi ancora chiusi, imprese, dice semplicemente quello che tutti pensano, moriranno un po' di persone, amen, certo, questo ha detto il signor Guzzini. Purtroppo il problema è che questa società ti impone, tranne che in questa emissione radiofonica, di tornare indietro, sì. Ora, facendo parte lui della secondo Confindustria, ha detto una sciocchezza, gli è sfuggita, ora che Gottardo lo difende, la persona è ancora più in difficoltà, lo pensa e poi deve chiedere scusa a tutti perché così vuole il protocollo. Ma perché non è così politica, sì, perché così vuole politicamente corretto, ragazzi, altrimenti ti dovresti dimettere. Cioè, perché cosa fai? Dici una cosa del genere, secondo tutto il mondo dici una cazzata e ti dovresti dimettere. Lui non si dimette e dice chiedo scusa a tutti perché non ho ragionato, che cosa ha detto? In particolare le famiglie toccate dal dramma del Covid, certo, per la frase che ho pronunciato, sbagliato nei contenuti, nei modi, pippe mentali. Guarda, la realtà è che lo pensa, se l'ha detto lo pensa, questo è il punto. Andrei a Macerata ad abbracciarlo. Guarda, presidente. Io, tanto si chiama Guzzini, non Guzzina, primo. Sì, secondo, se il dottor Guzzini sarebbe contento della tua discesa ottimo, a Macerata. Non allora, lo so. Sì, guarda. Un altro personaggio è l'ingegner De Benedetti, l'amato da Parenzo, ingegner De Benedetti, sì, il quale ha una strana idea di democrazia, posso ieri, dirti? Strana idea della democrazia. Ma sai, anche qua. Cioè, l'Europa non permetterà la vittoria del centrodestra. No, voleva dire un'altra cosa, nel senso che l'Europa ha detto, permetterà di chiamare i carri armati. Ma l'ha detto, sì, ma ho capito, però così. Carri armati. Ma no, nel senso che non è che l'ho sentito, lo guardo, no. Io l'unica cosa che guardo sempre è il Giro dei Benedetti 8:30 sempre. Avremmo un governo di destra che gestisce la pandemia, i soldi del Recovery Fund e anche le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Io non credo a questo scenario. Non credo. Perché non si tiene conto di qual è la funzione dell'Europa. L'Europa non permetterà mai, in un modo o nell'altro, poi so che questo sarà anche criticato, ma comunque Salvini sa di non essere accetto in Europa. Il giorno in cui viene Salvini, i rubinetti si chiudono. Se vincessero le destre durerebbero lo spazio di un mattino. Questa è l'idea di democrazia. Sono anti-europeisti. Però, quindi, posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Di Berlino al contrario. Anche, c'è un'altra piccola parentesi politica molto breve, poi torniamo alle cose nostre. Posso dirti una cosa incredibile? Perché in altri paesi si può concepire di andare a votare anche durante la pandemia? In Italia, se tu dici dove? Negli Stati Uniti, ma certo, negli Stati Uniti, ma che c'è? Non è che l'hanno rimandato per il Covid, cioè non è che un paese non si può votare perché c'è il Covid. Ti ricordo che il tuo amato Trump a un certo punto lui stesso pensò di rimandarle, non sai niente, assessore a Bassano sul Grappa, quando viene messo in discussione assessore a Bassano, si chiama, lei è una donna, si chiama Zanata, no, dice di solito i nomadi fanno i ladri, in dialetto, sai che non lo so, lo sa Gottardo forse, è una giunta a guida leghista, sarà la solita, d'accordo. È Lega o è Fratelli d'Italia in quella zona là. I nomadi, cosa dire? I nomadi, se saranno regolari e se avranno tutte le carte in regola, potranno anche loro concorrere e richiedere i contributi come tutti gli altri cittadini, e siccome bandi e contributi ne distribuiamo, anche loro avranno diritto a prendere la loro cifra di fino a qua ci siamo, che mettiamo a disposizione. Poi? Di solito fai ladri. Di solito fai ladri. di solito fanno i ladri. E poi dice, ma si è sentito, perché sì, era durante una commissione consiliare. Come dire, ops, ops, cosa ho detto? Mamma mia. Daniele, mamma da fermo, vai avanti tutta, Daniele, dimmi, dimmi, Daniele, mamma, dimmi. Dimmi, vai, veloce, veloce, Daniele, dimmi. Daniele, oh, mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dimmi. Oh, allora, io è da tempo che pensavo al regalo natalizio che potevo fare al nostro caro Covid Parenzo. Ah, sì. Prendendo spunto dalla puntata di venerdì, sì, ascoltami, dalla puntata di venerdì ci ho avuto l'illuminazione anche grazie a Gottardo. Gli regalo un mega set di pannoloni XXL, quelli per le persone anziane, quelli perché con... mai, caro? Perché mai? E perché mai, Davide? Secondo te perché mai? Perché se la fa sotto, dici? Ma di che cosa? Perché tu c'hai un grosso problema, che te caghi sotto troppo. Ma di che troppo, cosa? Troppo spesso, cosa? E te caghi sotto perché c'hai paura tutti i tanti giorni. Paura? Io paura? Ma se ti mando tu a fare il culo in 40 paura, secondi, ma di che paura? Paura? Ma di chi? Di del Covid? Ma secondo te? Ma se io giro tutte, ma se giro no? In continuazione? Hai paura, dai, hai paura. Hai paura? Paura? Non ho nessuna paura. Daniele, manda i pannoloni. Monterosa non è tuo. Monterosa non è tuo. Dimmi, dimmi. Bastano i pannolini taglia 6, non servono i pannoloni, bastano i tagliolini, i pannolini quelli da 2 anni. Sì, sì, basta. Hai ragione, effettivamente, taglia, effettivamente certo, questa è una anche buona idea. Il pistolino che io vi chiedo, ma vi chiedo scusa, cosa... ma la paura, diciamo, non mi appartiene. Dimmi, Daniele, dimmi, Daniele, dimmi, dimmi. No, sai qual è il problema, Davide? Sai qual è il problema? È che per il cagasotto non ci sta vaccino che tenga. Un cagasotto. Non c'è bacino. Non ci sta vaccino per quelli posso come te, perché una osa, se tu ogni volta ascoltami, se tu ogni volta esci di casa, amico da fermo, perché il Covid fermo, non te lo pigli te? Fermo però non è in Toscana, fermo però in nelle Marche. Sì, però fanno un po' biacicato. Che fai, te sbagli pure dialetto? Ti sbagli pure dialetto? Io sono marchigiano. Marchigiano? Sei marchigiano? Sono marchigiano, sì. E allora, visto che sei, ma perché non te lo prendi te il Covid? Ma perché me lo devo prendere io? Io penso che non devi avere così paura, che fai? Ma io non è che ho paura, sto qua a lavorare, ma che paura c'ho io? Sabato vado pure in treno. Fermi tutti. La Zanzara. Buonasera cari amici, per il nostro puntuale appuntamento serale di controinformazione. Vai, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Un cittadino ha fatto vedere, ha portato alla mia attenzione delle immagini fotografiche. Le immagini fotografiche riportate di seguito sono state catturate da fonti satellitari della RASA e sono veramente allarmanti. Cioè, che cos'è sta roba, le foto? Generale, cos'è sta roba, le foto? Metalli pesanti. Metalli pesanti, altamente tossici e sostanze chimiche vengono sistematicamente spruzzate nella nostra atmosfera da aerei a reazione. Ancora esce. Questi segnali vengono trasmessi da innumerevoli sedi in tutto il mondo, da vari tipi di piattaforme di trasmissione. A generale, stai ancora con le scie chimiche? Il metallo che viene maggiormente diffuso, e questo ovviamente ci deve maggiormente allarmare, è il bario. Il bario. Che procura obnubilazione, ottusità, riduce la capacità critica ciascuno quello, e rende la persona più sottomessa. In parole povere, ci fanno più deficienti. Avete capito? Il generale Pappalardo scopre oggi le scie chimiche, Parenzo. Le scie chimiche. Mancava. Dobbiamo dire che c'è un contenzioso in corso, non lo sapete, ascoltatore della Zanzara, tra il signor Pappalardo che ci ha chiesto venia, ci ha chiesto un qualcosa. Un'intercessione. Cioè, un'intercessione. Cioè io e Gottardo siamo ambasciatori nei confronti di Parenzo, che lo ha portato in tribunale. Ambasciatore in questo caso porta pene. In questo caso, vabbè, no? Ma dai, perdona il generale. Adesso stiamo valutando con i miei legali. Stiamo valutando con i miei legali che cosa fare. Mi ricordate cos'è che disse lui? Non lo so, disse che guadagnavi dei soldi, non so come, non so, eccetera. Non lo so. Non senti lo so, questa, ecco, più deficienti ci vogliono, ecco, più schiavi per fare carne da. Però secondo me se tu senti queste cose non rimetti la querela. Non rinunci alla querela. Quindi non stai facendo un bel servizio a Pappalardo tu mandando in onda. spargendo il bario sulla terra, noi che lo respiriamo diventiamo più deficienti, più schiavi, più sottomessi. A prescindere. E poi qualcuno si lamenta, ma come mai? Stanno facendo cane da porci di tutti noi, ci chiudono e ci restringono. Nonostante questo lockdown ci sono sempre più morti e sempre più contagi. Ma come si può andare avanti in questa maniera? Come mai tutto questo si può verificare? Sì. Ragazzi, due notizie. La prima, che non abbiamo commentato ieri, caro Parenzo, è l'avvocato Taormina. L'avvocato Taormina che ha creato un nuovo movimento politico insieme al tuo amico Fiore di Forza Nuova. Cioè, hanno creato Italia Libera, che però, posso dirti la verità, la parola libertà con Forza Nuova non è una parola che combacia. È un ossimoro, cioè. È un ossimoro. È come dire Vergine Madre, cioè è come dire Cruciani Pulito. Cioè, tu dici Forza Nuova non si può coniugare con la parola libertà. No. Modo. Si può coniugare con la parola carcere, secondo me, si può coniugare molto bene con la parola violenza, si può coniugare molto bene con la parola fascismo, para eversione. Allora, l'avvocato Carlo Taormina, fondatore di Italia Libera, nuovo partito contro la dittatura sanitaria che racchiude Forza Nuova, Gilea Arancioni, ex Five Stars delusi, no mask, no vax, eccetera, sentenzia. Con il sondaggio che ho fatto e che non ho ancora pubblicato, sono al 24%. Addirittura. Però secondo me questa qua è una frase. Mi è arrivato forse un po' tanto, no? Secondo me questa frase qua però non è una frase sua, è una frase di Sgarbi. Una casa di Sgarbi, loro vogliono appoggiare Sgarbi a sindaco di Roma, ma abbiamo Elia il camionista fascista. Eccoci qui, Elia, dimmi, Elia da Rieti. Vai, Elia, dimmi. Dimmi, Elia. Pronto? Dimmi, Elia, che c'è? Dimmi. Pronto, ciao, buonasera. Allora, innanzitutto volevo dire due cose apparenze sul fatto del Covid. E allora, io c'ho amici che sono stati presi da questo pseudo-Covid, che non è altro che un'influenza broncoasmatica bilaterale. Sì, uno ha tranquillamente spaccato la legna prima ieri e continua ancora a fare il boscaiolo. Scusate, fermi un secondo. Due. Che c'è, Davide? Che c'è? Noi stiamo parlando, giusto per ricordare. Aspetta, Elia. In linea un signore che, se non ricordo male, si chiama Elia di Rieti. Sì, che sventola nel suo camionista. E fin qua nulla di male. Sì. Che sventola all'interno del suo abitacolo. Sì, no, della sua abitazione. Della la bandiera, abitazione, della, Repubblica la bandiera della Repubblica di Salò. Pensavo anche della decima Mas. E che adesso, in diretta radiofonica. Qual è il tuo? No, un momento, sto riassumendo il problema. E adesso è in diretta radiofonica. Sta spiegando a me gli effetti, i supposti effetti. Cioè, lui sostiene che è poco più di un'influenza, vero Elia? Posso sommessamente dire che questa testa di cazzo deve soltanto star zitto e vergognarsi di quello che dice. Carissimo, sommessamente. Parenzo, lei mi fa parlare, no? Lei, lei mi fa parlare male. Lei purtroppo due qua cose, può parlare. Ignora. Adesso Elia mi sta spiegando Elia, a me. Però adesso oggettivamente non puoi dire quello che pensi su sua eccellenza. Lui poi mi può spiegare le sua eccellenza. Mi può le spiegare strade, qual è un buon autogrido per mangiare a Barberino del Mugello. L'unica cosa che può fare è questo qua, questa cosa qua. Capito? Cioè, non puoi dire dove cambiare le gomme però della macchina. Però siccome qui in questa trasmissione uno vale uno, anche ecco, Elia, che è un dramma, anche che Elia un dramma, ha un suo peso. Anche Elia pensa di poter parlare di Covid, ma è un coglione, rimane Elia. Scusami, Marietti, Elia. Un coglione. Scusami Elia, tu viaggi tranquillamente nell'abitacolo con l'immagine del duce, tranquillamente in tutti i paesi del mondo. Nessuno ti dice nulla in tutti i paesi d'Europa? Io tranquillamente viaggio con le canzoni del ventennio fascista, con immagine, figlio e duce ai lati del cane. Nessuno a me non dice niente. Nessuno ti ha mai spaccato con una pietra. Nessuno con una pietra ti ha mai spaccato un vetro del camion. Io non so se Parenzo sa che una persona che lo trova positivo al Covid non è che gli fanno un tampone, gli fanno una serie di tampone. Allora io adesso sono positivo, mi fanno 10 test di tamponi. Basta, non ha no, ho fatto un esempio idiota. Basta. Fatto un esempio stupido. Lei è positivo adesso? No. Lei è positivo alle idiozie. Lei è positivo alle idiozie. Ciao Elia, ciao, mi rotti i coglioni, ciao. Federico dalla provincia di Lecco, avanti tutta, dai. Vai, avanti vai. Tutta, ciao, mi senti? Sì, dimmi caro, dimmi. Ok, in riferimento a quello che ha detto Parenzo su Fedez, ho visto il suo post di Instagram, quello di Parenzo, sì, e mi chiedo se si proclama ancora sinistroide, quello che aiuta i più deboli. Beh, ma cosa, sinistra con la caffonata, fai vinta con la caffonata, fai sempre quello, cioè, di aiutare fuori. Più deboli. Cosa io ho scritto la caffonata dell'anno, Fedez, sì, che okay, con la sua Lamborghini regala in diretta social 5.000 euro. Lui gli ha donati quei soldi di Twitch, sono suoi, lui li ha guadagnati, sono suoi di Ma che cazzo vuole che c'è il protocollo? Che fa questo? Come si è collegato questo, Federico? Cioè... Ma io non ho bisogno di nessuna pubblicità. Scusami, Federico, però il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è un altro. Sì, secondo me, ognuno fa il cazzo che vuole. Ma questo cioè, esatto, ognuno esatto, fa, ma fa beneficenza con la Lamborghini. Non c'è il protocollo Gottardo. Esatto, ma non lo capiscono. Devono andare controcorrente. Deve fare per forza beneficenza in silenzio. Ma vaffanculo, perché devo fare beneficenza in silenzio? Do dei soldi, lo dico, che cazzo vuoi? Ha fatto uno show, Teleton non lo trasformano pure in uno show televisivo? Che Davide, cazzo vuol dire? Certo, no, scusa, alcune cose sono uno show a 5 persone con 1000 euro, 1000 euro che servivano e tu lo attacchi. Io non ho bisogno di pubblicità perché ho già la mia notorietà e sono contento così, che non è come quella di Fedez, per carità, che tra l'altro ho commentato, vai a vedere. E chi me ne frega? Ma no, vabbè, ma commentato, ma porca la gran puttana, ma perché uno non può fare beneficenza come vuole? Uno fa beneficenza in Lamborghini, posso dire che è una con un caffonata. Costume, ma caffonata è un giudizio, no, è un giudizio assurdo che non ha senso, perché non esiste un protocollo. Certo, non esiste un protocollo per fare beneficenza, non esiste il protocollo volo, il protocollo Parenzo, ma il protocollo di non so che cosa. Esiste fare beneficenza, punto. Ma che il buon senso non lo decidi tu? Cazzo. Ma è uno show, è uno show, fa quello sulle spalle di queste persone. Quando qualcuno costruisce programmi televisivi per raccogliere soldi, utilizza, sì, poi non va a fa la televisione, raccoglie pubblicità, come raccoglie pubblicità, allora? Facendo quella trasmissione televisiva. Allora che cazzo volete? Non ma ho capito. Uno fa su Twitch, raccoglie dei soldi, li prende e poi la modalità, e poi posso dire gira. Che è una caffonata. Ma chi ha detto che bisogna farlo in silenzio? Ma chi lo decide? No, io ho dato mica un giudizio personale, mi sembra una caffonata smargiassata dove trasforma tutto in show. Ma Gottardo parla. Guarda, ma che cazzo ne so, io vuoi che ti dica su questa cosa qui, vuoi che ti dica, allora 5.000 euro per uno come Fedez sono come 50 euro per me. Io allora sono che vuol dire? Ma che vuol dire questo? Ma questo che vuol dire? Lo faccio sapere, certo. E non erano neanche i suoi quei 50 euro lì, erano i 50 euro che gli avevano dato gli altri. Ma certo. Sono suoi, ha guadagnati come tu li guadagni qua. Scusate ragazzi, ma sono problemi inesistenti. Allora innanzitutto ognuno è tutta fuffa, ha ragione Federica, è come il Marchese del Grillo. Ma che è il Marchese del Grillo? Ma voi siete malati. È il Marchese del Grillo. Ma tu non sei in grado manco di fare beneficenza in silenzio. Tra l'altro, fai un cazzo. E poi uno può fare beneficenza in silenzio. Io non la faccio e non me ne frega un cazzo di farla. Lo dico, non ho mai fatto beneficenza, non do un euro a nessuno e me ne sbatto i coglioni. Ma se uno vuole dare 5.000 euro a 5 persone scelte a caso per strada, un crochard, una dei McDonald's, eccetera, mettendoli sullo stesso piano, il crochard, ma cosa c'è? Ma mica fa filosofia McDonald's o sociologia? Dai, c'ha 5 persone, 5.000, ma è offensivo come? I soldi in contanti, ma che roba è deciso di farlo. È un mondo ribaltato. Dimmi, Federico, evidentemente sei a conoscenza, allora, di qualche cosa. Io ho visto tutta la live. Lui ha chiesto ai suoi seguaci: sì. Decidete voi cosa devo fare con questi 5.000 euro che giustamente sì. a lui non servono, perché lui avrà un miliardo di euro. Sì, vabbè, ma al di là di questo, ma al di là, ma che c'entra? Allora... E quindi giusto. Lui, per dimostrare che questi soldi gli dà veramente, l'ha dovuto filmare per far vedere i suoi follower. Certo. È così che è buono lui. Ma non è buono. Ma cosa c'entra? Ma nessuno che si è presentato come buono. Ha fatto questa roba qua. Punto e basta. È buono e con la Lamborghini va a dare. Ma scusa, ma intanto quelle persone hanno goduto. Hanno goduto quelle persone con 1.000 euro. Hanno goduto o no quelle persone? Ha cambiato la vita con 1.000 euro. Ma dai, no, la vita no. La vita no. Quasi la vita, quasi. No, ma insomma, da alcuni certamente il crociar, magari a quella della dei medici che non possedono niente, quasi. Però, giustamente, scusami, ma cazzo i soldi. Questo nostro ascoltatore guarda le dirette di Fedez e chiama la Zanzara, fa un cazzo la mattina, la sera, voglio ricordare una cosa, caro Parenzo, caro Gottardo, che parlate, signor Fedez, io ripeto, non do una lira a nessuno, non me ne frega un cazzo, a lui ha questa politica di raccogliere dei soldi, di eccetera, pubblicizzare se stesso, ma che vuol dire, ma come cosa vuol dire, ha raccolto 100.000 euro di soldi suoi, ha dato 100.000 euro ai lavoratori del mondo dello spettacolo. 100.000 euro. Dunque, se tu sei disoccupato, se tu resti col culo per terra perché non ti danno più un euro, caro Gottardo, magari prendi pure i soldi di Fedez, stai muto e te ne vai a fare in culo. Fermi tutti. La Zanzara. Grande Librandi, continua così, devi gridare al mondo che cos'è la sinistra odierna, grande, fai capire quanto non valete un cazzo, quanto siete fuori da ogni logica divina e quanto siete stronzi, ti prego di continuare ad oltranza, più vai avanti e più sarà un vantaggio per l'Italia, continua così, ti vogliamo così, grande Librandi, grande! Questo che tu dici, noi siamo integrati e tu vuoi che noi viviamo sempre nelle tende, nelle baracche? No, cercatevi un lavoro, pagate una vitto e fate come tutte le altre persone che rispettano le regole in Italia, mandate i figli a scuola, denunciate chi manda i figli a rubare, pagatevi un affitto, pulite invece di tenere quelli immondizia in quelle condizioni. Vieni tu a vivere con tua moglie e figli qua solo 3 giorni. Perché mia moglie e io fin da ragazzini abbiamo lavorato, pagato le tasse, pagato un affitto, è molto semplice, allora, rispettate in chiusura i grandi scontri di dritto e rovescio, deputato di Fratelli d'Italia contro un rom, ragazzi, che top assoluto. Posso dirti una cosa? Non era mai avvenuto, peraltro, è una costante. Allora, c'è un'idea originale, tu pensa che esistono due deputati siciliani della regione Sicilia, intendo? Io naturalmente avrei un'altra idea. Qual naturalmente è il noi benvenuti in così, naturalmente. Si introduce sempre, ascolta sempre la Zanzara Freccero. L'abisso dell'umanità, naturalmente. Per la capire le fogne, naturalmente. Per capire le fogne dell'umanità, naturalmente. Che è successo? niente, rumore di fondo. Naturalmente è caduto Gottardo, da quanto è grosso, è caduto, naturalmente ha sfondato la sedia, dai. Allora non ho capito, perché ascolta la Zanzara? Naturalmente l'idea che mi è venuta all'improvviso è questa qui, noi siamo abituati a vedere i rom collegati sempre in queste trasmissioni che naturalmente rivendicano lavori che non fanno, naturalmente. Allora bisognerebbe invertire completamente il racconto e mettere alla conduzione i rom nel campo del debito. Naturalmente. Oppure anche Donzelli, Fratelli d'Italia, dice. Far vivere qualche giorno del debito in un campo rom. Esattamente, e mettere un rom alla conduzione. Un rovesciamento, naturalmente, un rom che conduce, bellissimo, al caldo dello studio, naturalmente. Scusi, lo share potrebbe abbassarsi, però. Dai, che si prova, si sperimenta, naturalmente. La TV deve sperimentare, naturalmente. Potrebbe funzionare, dai. Ho capito, però i conduttori sono i conduttori, i rom sono i rom. Non esistono conduttori, dai. Naturalmente abbiamo messo Paolo Savona, il presidente della Consob. Ma perché sempre a lavorare su alcuni programmi molto importanti, naturalmente, grandi progetti, naturalmente. Alessandro da Roma. Alessandro, ma da la Roma. Gente sa chi è Paolo Savona? Sì, spero. Sì, che no, non, credo, non è molto popolare. No. Alessandro da Roma. Intanto, fra poco vi faccio ascoltare un medico di base che magari chiamiamo. Intanto vi faccio ascoltare qualche piccolo audio. Qualche piccolo audio. Un medico di base che abbiamo già ascoltato. Che però, secondo me, ha il diritto di parlare e dire te, la sua. Ma per te ha anche, il diritto di parlare. Per te anche, anche Göring ha diritto di parlare. Göring, anche Mengele avrebbe diritto. No, dito, avrebbe il diritto di parlare di medicina, perché anche Mengele, no, ma che cioè, se tu importissi, devi stare all'epoca, dici, scusi, dottor Mengele, che esperimenti che, scusami, sta facendo lei? Chi è che e non gli diresti nulla. Però, scusami, tu. Gottardo, su questo mi puoi aiutare, Gottardo? Cioè, chi è che non avrebbe all'epoca intervistato Goebbels? Allora, beh, ci mancherebbe anche o Göring, sì, certo. O Göring, grande esperto, grande esperto di comunicazione. Sì, all'epoca non si sapeva un cazzo. Era il Cruciani degli anni 30. No, invece oggi si sa, e quindi questi personaggi che tu intervisti andrebbero contestualizzati dicendo: la persona che state sentendo è semplicemente un idiota. Alessandro, che la Cassazione non può. A Goebbels sarebbe piaciuta la zanzara. Sicuro? No. Ciao Giuseppe. Dimmi. Io volevo parlare un attimo con il dottor Parenzo. È qui. Eccoci, dimmi. Qua, caro amico. Fare una domanda che ormai mi attanaglia da giorni. Questa domanda. Volevo sapere il nome di questo. Come si chiama? Giustamente mi suggerisce, però, Poli, che c'è un rischio. Ci potrebbe essere un rischio, battutaccia questa, naturalmente. Sì. Ma ci sta che il rom in studio crei qualche piccolo problema dopo, non so, le suppellettili. Cioè, mettere un problema. Mi fa fare questa domanda a Parenzo. Ma come si chiama il nome suo? Com'è? Qual è il suo nome? Alessandro. Alessandro, non l'avevo sentito, mi scusi, okay. Mi dica, caro Alessandro, mi dica. Allora, io volevo sapere, sì, mi dica, se lei dovesse dare un voto da 1 a 10 a questo governo, alla conduzione di questo governo, che voto gli darebbe? 4, forse 4 o 3. Io? Cioè, aspetta, lui no, Parenzo, Parenzo. No, Parenzo, no, che vuoi che dia? Cioè, voglio dire. Dipende da 10, chi, da quali ministri, sostanzialmente. No, tutto il governo, non te la dico. Ma al governo gli darei in questa fase 6 e mezzo. 6 e mezzo. Ma tu sei impazzito. Personaggi che non hanno dato un euro. Dovranno arrivare i soldi il 15 novembre. Non hanno dato un euro. 6 e mezzo. Voto al governo. Per gli amici di Libero. Tra i 6 e 6. Tu sei impazzito completamente. Non hanno costruito un ospedale. Ma noi con chi stiamo parlando esattamente? Alessandro da Roma. Alessandro da Roma, chi è? Che cosa fa esattamente Alessandro da Roma? Ma perché io devo parlare con Alessandro da Roma? Perché sei in questa trasmissione dove uno. Perché non mi chiedi? Perché Giuseppe non mi chiedi? Ma nella vita normale tu parleresti con Alessandro da Roma? No. Sì, dovresti. La risposta è no. La risposta è no. La risposta è no. La risposta è no, non mi interessa parlare con Alessandro da Roma. Scusami, però, Alessandro, come giudichi questo governo? No, sto dicendo che sei un cretino, ma non con affetto. Come giudichi questo governo? Cioè, allora, se mi dai 30 secondi, sì, però io ti faccio se tu mi chiedi singolarmente alcuni ministri prendono delle gravi insufficienze. Ad esempio, no, se tu devi giudicare il complesso. Mo te lo dico io come giudico. Sì, perché la situazione è pazzesca. Allora, un governo che ha chiuso tutto, non ha dato un euro, stiamo ancora aspettando i ristori, perché ormai si chiamano ristori. Vabbè, l'hai già detto. Non hanno pagato le casse integrazioni, non hanno fatto una riforma per la scuola. Ciao Alessandro, ciao. Non è porta a porta, però, alla fine non è porta a porta. Amici sostiene, medico di base, che i tamponi sono falsi e trattano il Covid come la peste nera. Io non uso la mascherina neppure dentro lo studio, caro David. Io non ho mai indossato la mascherina, io esercito e vedo decine di pazienti al giorno, a studio non ho mai usato la mascherina. Ho testato i tamponi sui kiwi e la ricotta e sono positivi. Cioè, c'è quello che l'ha testato sulla Coca-Cola e sono positivi. Senti. E dimostrerò, come ho già dimostrato, che nel 15% dei casi i tamponi, anche se testati sul kiwi, sul formaggio, sulla ricotta, risultano positivi. C'è una dittatura sanitaria. Dobbiamo continuare questo stato di tirannia e per continuare a portare avanti questa dittatura sanitaria abbiamo bisogno di prolungare lo stato di emergenza. E allora cosa fanno? Siccome sanno bene che i tamponi nel 15% dei casi risultano positivi, quando devono far vedere che aumentano i focolai, aumentano il numero dei tamponi. Giusto! E per cui aumentano il numero dei tamponi, conseguentemente aumentano i positivi. E allora arriva il Presidente del Consiglio con la mascherina in faccia. Cari italiani, dobbiamo continuare a sacrificarci, io soffro per voi, soffro per voi. Un grande combattente, amici, non c'è niente da fare. Un grande combattente, questo medico ma di base. Dov'era? È un dov'era grande combattente. Gente che lo inneggiava. Era una cosa in piazza, in un paese, non so dove. Cioè, ma non si può in piazza. Non si può, infatti. Ma sì, ma era in piazza insieme a delle altre persone, con a distanza, non mi ricordo dove. Può. Non mi ricordo se era in piazza, in qualche posto. Che cazzo ne so, ma che devi che sei in questurino che ti metti a fare lì il coso? Ti metti a fare il precisino mi su dove era, dove non era. Di Parenzo. Dai. Parenzo si sarebbe già pisciato addosso in una situazione. La vaccinazione è l'inizio dei mali. Tutto questo sappiate che è finalizzato a far passare come un toccasana, come la salvezza del mondo, la vaccinazione. Non è così, ragazzi. La vaccinazione, adesso ve lo spiego, è l'inizio dei mali. La vaccinazione è l'inizio di un meccanismo che serve per tenervi non in salute ma cronicamente ammalati. Vaccinarsi non serve a niente. Poi lo chiamiamo, subito lo chiamiamo, che sono caldissimo, mamma su amici, mia, caldissimo, mia, caldissimo. Mia, grande combattente, mia, ha diritto di parlare, noi lo contesteremo, ma ha diritto di parlare. No, tu no, e l'altra so volta, già che non lo contesterai mai. Io lo lascio un po' parlare, qui ci sono dei ruoli, qui ci sono dei ruoli. Tu ci lo sono accarezzi, comunque lo accarezzi. Io accarezzo la libertà. L'accarezzo la libertà. Sei un criminale, sei un criminale, sei un criminale. E la vaccinazione antinfluenzale ve la fanno ogni anno. E allora, se fosse un vaccino utile, perché ripeterlo ogni anno? Direvano voi, questi svergognati, questi impostori, perché ripeterlo ogni anno? Perché non serve a niente, ma serve per ingrassare le case farmaceutiche. Esatto. Hanno rotto i coglioni, farmacie, banche, di andare a fanculo. Ma perché sotto la gente? Ma perché? Chiamiamo, ti prego. Chiamiamo. Pronto? Lei è il mio mito assoluto, lo sa, sono Cruciani, buonasera. Sì, buonasera. Lei è il mio mito totale, totale, perché lei dice quello che pensa apertamente, cioè non si nasconde dietro i cosi. Ma esattamente, anche perché, ripeto, io a differenza loro, sì, non sono un negazionista, sono loro che sono negazionisti, perché io dico la verità e gli altri negano la verità, quindi chi sono i negazionisti? No, vabbè, ma possiamo discutere all'infinito sul negazionismo, cosa è e cosa non è. Di fatto, lei sostiene, per esempio, che il vaccino è una buffonata, diciamolo subito. Esattamente, ma lo perché sostengo scientificamente, non è che lo sostengo perché è una mia opinione, io non esprimo opinioni, io dico, parlo solo di certezze. Però scusi, come fa a dire che il vaccino è un veleno, cioè che fa venire il cancro, eccetera? Perché io questo ho sentito, lei in piazza lo ha detto apertamente. Ma io non dico che fa venire il cancro, io dico che il vaccino è, i virus che sono all'interno del vaccino sono inattivati dalla formaldeide, che è una sostanza chiaramente cancerogena. Sono stati, per lei non serve a nulla, non serve a nulla ed è un grande business delle aziende farmaceutiche, questo è per lei. Esattamente, certo, esattamente. Perché se noi andiamo a fare il vaccino con il virus di oggi, che tra tre mesi sarà mutato almeno 100.000 volte, che efficacia può avere? Fermo restando che poi per preparare un vaccino bisogna isolare il virus. Dunque ci stanno inoculando? Che cosa ci stanno? C'è ampia discussione, ci stanno inoculando, capito, delle schifezze. Esattamente, perché poi i vaccini non è che contengono solo i virus, i vaccini contengono tantissime sostanze adiuvanti. Dunque lei non lo farà? Certo che non lo farò, perché non serve, se servisse fosse utile, ma voi vi siete mai chiesti perché i vaccini per virus stabili, tipo quelli per il vaiolo, nella vita lo fai una sola volta, e invece gli altri per l'influenza o per il Covid, che sono virus mutabili, ogni anno si rifanno il vaccino per l'influenza. Se effettivamente fosse efficace, perché ogni anno vi dovete scusi, fare ma perché tutti questi scienziati allora sono alla ricerca di questo vaccino? Secondo lei, cioè, sono tutti corrotti? Possibile mai? Ma il problema qual è? Voi dovreste comprendere chiaramente che le case farmaceutiche devono vendere vaccini e farmaci, quindi è ovvio che loro adottano delle strategie di vendita. Cioè lei parla però apertamente dei pagliacci, delle assassini. Quando chiamano i congressisti, cioè i cattedratici, a fare i convegni su determinati farmaci o vaccini, quei cattedratici vanno lì a suon di gettoni di protesi. Dunque lei mi sta dicendo che i virologi che sentiamo, senza fare nomi, i virologi che sentiamo continuamente tutti a libro paga. Sono tutti a libro paga, lo dico chiaramente, non ho paura, mi denunciassero. Beh, oddio, questa è grossa. Non vado a fare i convegni per le case farmaceutiche, quindi non divento da medico un promotore. Ma tutto il mondo sta... Scusi, però, dottore, mi lasci contestare questa cosa. Tutto il mondo è alla ricerca del vaccino e lei dice no, sono tutti dei buffoni che ci stanno prendendo per il culo. Qualcosa non torna. No, io intanto non dico parolacce, io non uso di dire parolacce. Io dico soltanto che il mondo non è governato dagli stati, è governato dalle multinazionali, perché una multinazionale farmaceutica fattura quanto 50 stati messi insieme. Dunque comandano loro. E quindi siccome è multinazionale e fattura quanto 50 stati messi insieme, ma chi comanda? Ma lo Stato, che è un cinquantesimo di una multinazionale, capito? Oppure una multinazionale. Ma c'è una dittatura, scusi, che utilizza i governi fantoccio, che sponsorizza per farli reggere o che sponsorizza direttamente o indirettamente tutti i mezzi di informazione. Dunque noi siamo in dittatura sanitaria oggi siamo in Italia. Siamo in dittatura sanitaria perché nel momento in cui si prendono provvedimenti monocratici, tipo i DPCM, che non sono provvedimenti collegiali, noi trasformiamo la democrazia in monocrazia, cioè in dittatura. Scusi, ma qualcuno le ha rotto le scatole perché lei dice queste cose. Per esempio, quando dice che nello studio lei non mette la mascherina davanti ai suoi pazienti, questo è pesante, cioè, questo è certo, infatti io lo dico e lo ripeto ancora, venissero mi devono denunciare, perché loro mi denunciano. Lei vuole essere cacciato praticamente. No, io non voglio essere cacciato, io siccome dico la verità non ho paura di non nessuno. È ancora stato cacciato, fermi tutti, scusate, non è io. Ancora stato cacciato? Non sono ancora stato cacciato, male. E ci provassero a cacciarmi. Molto male, ora certo, io mi auguro che ascoltando queste sue stronzate la devono cacciare. Ma perché la devono cacciare? Ma la devono cacciare a pedate nel culo. Ma perché? Ma dice quello che pensa. Come deve usare un po' di educazione. Non mi farei togliere neppure un pelo del naso benissimo, da questo ma qua. Allora, io. Non dovete telefonarmi. Io però quell'imbecille che glielo dico chiaro, amici, io lo denuncerò per quello che ha fatto. Io sono perché lui quell'altro suo partner, gli speaker partner, che sto Parenzo, lo denuncerò, gli chiederò i danni. Ma perché cosa? Perché per tutto quello che ha fatto nell'altra. Ma non ha detto niente, ha detto quello che pensa. Come lei dice quello che pensa. Scusa, lo vedremo in tribunale. No, dove intervista? Dottore, intervista. Lo vedremo in tribunale. Devono cacciare. Forse si difenderà con pantaloni, non c'è problema. Però intanto pantaloni. Però dottore, scusi un attimo, però andiamo con calma. Qui ognuno dice quello che pensa. Zitti un attimo. Una persona unicamente maleducata. Però scusami, ma non dica cazzate, amici. Mi permette di parlare con me. Ma questo ancora medico è questo. A leggere e scrivere. Ma questo ancora medico. Stai zitto, David, un attimo. Scusami, amici, però se tu hai che va spiattellando in giro. Però scusami, amici, se tu hai il diritto di dire che il governo sono dei pagliacci, che il governo sono addirittura degli assassini, che le multinazionali governano il mondo, ha diritto di dire che sono cazzate, che è una stronzata, scusami, no, che sono cazzate, no. Che è una stronzata. Se dicesse in forma educata come le dico io, però vabbè, che c'entra, ma che educazione, ha detto che sono educata come dico io. Ma quale educata? Ma in questo caso non c'è educazione, c'è semplicemente dirle le cose in faccia come si tratta. Lei è semplicemente ridicolo. Sì, lei è semplicemente un uomo ridicolo. Disse il medico che deve essere cacciato dall'ordine. Cacciato, non è che lo decidi tu. No, io spero che venga cacciato tutto qua. Spero che venga cacciato. Ma io spero che venga cacciato. Il mio sapere è frutto di anni il tuo di sapere, toglimi, sì, toglimi un pelo dal naso, capito? Toglimi i peli dal naso. Sì, l'esperienza di stare davanti al microfono, sì, a dire un po' di raccontare un po' di però scusami amici, ma gli italiani non hanno bisogno del suo show. No, gli italiani hanno bisogno di conoscere la verità. Però scusami amici, lei invece diffonde menzogne. Tu stai dicendo che ogni giorno tu stai dicendo che ogni giorno ci raccontano cazzate, che esagerano il numero dei morti, che i tamponi sono finti, è tutta una cazzata. Ci sono i dati scientifici, i dati statistici. Ma quali dati di chi? Del Ministero della Sanità che parlano chiaro. Sì, quello è vero, ci sono quei dati là, non c'è dubbio. Che parlano chiaro, che non sono i vostri dati. Dunque ci stanno terrorizzando inutilmente, dovremmo circolare liberamente, tutto aperto, ristoranti, come certo, esattamente, perché non c'è la peste nera in giro. A dottor Morte! Dottor Morte! Non c'è la peste in giro. La cittadinanza, i cittadini, il popolo va mantenuto in salute. Tenuto cronicamente ammalato. Ma dove lavori te? Ma dove lavora questo all'obitorio? Dove lavora questo all'obitorio? All'obitorio lavori. Io lotto per mantenere la popolazione, non per tenerla cronicamente. Ma come ti chiamano, dottor Morte, a te? E come fate e come contribuite a fare voi? Quale modo vi di fare? No, voi no, voi no, perché noi ti facciamo parlare liberamente. Amici, ti facciamo parlare liberamente, puoi dire quello che ti pare. E sbagli a chiamare. No, io non sbaglio, io faccio parlare tutti. Amici, parla questo. E si assume le sue responsabilità. Ma può parlare, può parlare. Può parlare la zanzara dove parlano i pagliacci. Scusi, i suoi pazienti, quando lei si presenta senza mascherina, cosa dicono? Non dicono niente, tant'è vero che io da quando esercito in pieno, non c'è più un cazzo di nessuno, dico, infatti io non ci ho avuto un problema, non c'ho avuto più un paziente, ma non ha avuto più un paziente, non problema. I pazienti ce ne ho 6.000, capito? E non ho avuto neanche un decesso, tutti guariti. Le dimostro scientificamente che il meccanismo di trasmissione del virus non è tenuto certo a bada dalla mascherina, che non serve assolutamente a nulla. La mascherina, tra le altre cose, fa anche ammalare, certo. Fa pure ammalare. Fai morti la mascherina, certo. Fai morti. Tutto il mondo ci consiglia di mettere la mascherina, stiamo vivendo in un incubo praticamente. Ma stiamo vivendo. Esiste. No, ma la domanda non è tutto il mondo, è la strategia. Di chi? È la strategia di mercato che è stata posta in essere, né più e né meno. Dunque, è non ho capito, lei perché parla di governo di assassini? Scusi, perché parla di governo di assassini? Nel momento in cui vengono posti in essere provvedimenti e protocolli terapeutici che fanno morire le persone, chi li pone in essere? Che cos'è secondo lei? Ho capito, però se lei dice assassini, noi possiamo pure contestare che questa. Che cos'è secondo lei? Chi pone in essere provvedimenti che portano a morte? Dunque, andrebbero arrestati per omicidio. Certo che andrebbe arrestato perché non porta la mascherina. Lei andrebbe multato perché non porta la mascherina, invece guarda la differenza. Io mi auguro che venissero a multare. Io infatti mi sono fatto multare. Bravo. Adesso vedremo che fine farà quella multa. È bravo. Paga. Capito? Saluti e baci. Io paga la multa e taci. Io non ho paura. Ma paura di che? Bisogna avere paura di te come medico. Altro che. Io a differenza vostra sono. Ma quale paura? Ma la verità degli mortacci tua. Sì. Continua a dire parolacce. E dai. È namo. Adotto. Lei non è nemmeno capace a fare adotto. Lascia che ti dica una cosa. No però scusa, che c'entra la pernacchia adesso? Dai, cosa c'entra? Abbiamo sentito fin troppe minchiate di questo qui. Questo qua si rende conto del messaggio devastante che manda? Intanto continui a dire. Questo è l'argomento. Manda un messaggio devastante. Devastante. Lei pensa di essere il depositario della verità e gli altri dicono delle menzogne. Questo no. Qui noi siamo aperti a qualsiasi cosa, però lei non è il depositario della verità. Io dico come stanno le cose. Ho capito, ma no. Io dico come stanno le cose, lo dico e parlo a fronte di esperienza quarantennale. Poi, chiaramente, Pinocchio. Pinocchio di decidere di farsi il vaccino o di non farselo. Vabbè. Però il vaccino deve conoscere che ci sono vaccini utili e ci stanno vaccini inutili e dannosi che servono soltanto per COVID diversi da quelli della tutela della salute. E quello sul COVID è tra questi qua. Adesso vi saluto e grazie. Buona serata. Ma per carità. La Zanzara. Mi è arrivato il foglio, poi ha portato gentilmente un'infermiera che sghignazzava, un'infermiera che è di colore nero, ecco, ma di nome Bianca, già si può dire, sono della cosa silenziosa. Poi mi fa: sei ancora positivo? E poi a me piace Parenzo, brutta merda, sei infilato dappertutto, anche qua sei brutto bastardo, devo parlare piano che sennò mi sputo dentro la minestra, ma adesso è maledetto, ti sto stramaledendo Parenzo, mi hai fatto prendere il COVID e poi positivo un'altra volta, maledetto te Parenzo, guarda, maledetto. Per chi non lo sapesse, questo è il rider ricoverato in ospedale. Ricoverato all'ospedale. C'è il COVID, sì. No, sì, no, non posso, pensavo a casa. All'ospedale ricoverato. All'ospedale. Mi dispiace, gli faccio i miei migliori auguri. Mi sembra che sta benissimo. Io penso che sta benissimo prima, ma gli faccio che gli porteranno tanta fortuna i miei migliori auguri. Di prontissima guarigione. È morto praticamente. No, perché mai? Io gli faccio i miei migliori auguri di prontissima guarigione, guarda. E mi dispiace dover dare ragione, parlo piano perché sono sempre qua. Sempre qua. A papà Gambalunga Gottardo. Adesso quando immagrezzo sono papà Gambalunga. Perché Gambalunga? Mi dispiace dargli ragione, perché qua in un hotel pieno di tutti i malati di Covid, ne è morto solo uno. Aveva la giovine età di 94 anni, ed era talmente piegato in avanti che se gli mettevi la Nutella sulla pancia sembrava una girella. È morto, poverino. Ma che aveva 95 anni, era tutto sfatto, diabete e tutto il resto. Solo lui, il resto siamo uno più fresco dell'altro, capito? Sembriamo una squadra di calcio. Dai, mandate a cagare, quella che non fa un cazzo, è solo così per bloccare l'economia e far contento quel bastardo di Parenzo, che ogni positivo in più gli è una sghignazzata, è un'erezione, è una vibrazione all'ovetto che ci ha infilato del culo, quello che gli manovra Francesco da Parenzo, da Firenze. Pezzo di merda Parenzo. Questo qua. Tanti auguri, Tanti auguri. Io lo considero il numero uno assoluto, sì, numero e non è finito il rider di Bologna. Tanti auguri di pronta guarigione. Direi poi ti puoi fare l'attore? Sì. Ti piace l'attore? Ti puoi fare rider, l'attore? Tocca di coglioni, tanto ci sta ascoltando. Perché? Rider, tocca di coglioni a pelle. Tantissimi auguri di prontissima guarigione, caro. Parenzo è collegato all'OMS. Ogni cosa, ogni malato, ogni positivo in più. Sì, va direttamente collegato all'ovetto che ci ha infilato nel culo, gli dà una vibrazione, lui vibra, ecco perché è sempre allegro, sempre contento, quella merda schifosa di Parenzo. Auguri, auguri. Stavo leggendo nel frattempo, sì, caro Gottardo, dimmi se questo rider non è il numero uno, questo rider di Bologna. Beh, questo rider però ha colto un esempio. Parenzo, quando apre con i contagiati, gode. Sì, questo è bello. Io lo vedo, sì, ma no, in alcun modo. Squirta. Sì, sì, no, sì. Ma in alcun modo. In alcun modo. Squirterebbe. Appena vedi il numero dei morti che schizzare in alto, gli viene un tremore. Tutt'altro. Dico semplicemente che voi siete due irresponsabili che non vedete questi numeri. Ma che vediamo i numeri, cosa? Oggi 846 morti e voi scherzate. Chissà perché sono schizzati in alto. 846 persone e voi ridete. Ma chi ride? Incredibile. Intanto apprendo da alcuni giornali americani un caso veramente incredibile. Vorrei avercelo ospite questo signore. Un dottore in America, un dottore stimatissimo, un tale Philip Piven, avrebbe usato il suo sperma ovviamente senza che le persone lo sapessero, senza che le coppie lo sapessero, per mettere al mondo 9000 bambini durante i suoi 40 anni di carriera a Detroit. È pericolosissimo, però. La cosa è incredibile. Sarebbe il padre di centinaia di bambini avendo usato il suo sperma. Ha usato il suo sperma. Era arrestato poi. Ma non lo so, ma adesso non so, forse addirittura morto questo qua, adesso io non lo so bene, ho letto la cosa al volo, era... Non cioè, sai bene, donatore... siccome Feltri, uno ti chiede una cosa, ma io non so, siccome non so, allora che cazzo parli se allora, non so. Un dottore ha usato il suo sperma per mettere al mondo centinaia di bambini per 40 anni. Ragazzi, un genio assoluto. Ma vogliamo sempre per parlare reso di sta... però ha reso felici no, quei bambini. No, per carità, ha reso felici sempre delle coppie. Follie americane. Vogliamo parlare di Oliver Stone che si Marina è fatto dalla vaccinare provincia di Vicenza, non me ne frega col cazzo. Vaccino russo Sputnik. Sì, certo, ottimo. Giorni fa Marina provincia è un casino. Dimmi che c'è, Marina, dimmi. No, sono straingazzata, ma tu lo sai che un amico poliziotto mio della sì. stradale, che poi io sono comunista di sta roba, è amica di Parigi, ma non Gottardo questo. Allora vabbè, ha fermato una macchina con due positivi Covid sì. che tornavano belli belli domenica dal pranzo domenicale qua ad Asiago. Cioè, c'è un senso civico, perché poi gli ho chiesto: ma sei tutto automatizzato? Sì, perché noi abbiamo un portale apposta da quando è nata l'emergenza. Vabbè, ma scusa, ma che ce ne frega a noi adesso di questa roba, Marina? Spiegami, non ho capito che ce ne frega a noi. Ma ti rendi conto che gente va in giro? Cioè, ma capito, ma questi che vanno in giro con Covid? Ma chi va in giro? Non c'è nessuno che va in giro col Covid, saranno pochi coglioni. Questi li hanno fermati. No, questi che sono stati beccati e lui adesso è a casa 15 giorni. Per forza, è entrato in contatto con questi. Ma non sono gli unici, perché lui aveva appena iniziato il turno. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma sti cazzi, come sti cazzi? No, ha ragione. Questi negazionisti folli, hai capito? Bisogna essere stronzi. Marina, non c'è senso civico. Guarda il bicchiere mezzo pieno. Tuo amico poliziotto sta a casa per causa di servizio, non sono neanche ferie. Ma no, ferie, perché 15 poi è stato giorni. A casa anche il compagno di pattuglia. Vabbè, Alberto, però intanto capisci? Si fa due settimane di ferie. Se non, gli vengono complicazioni, se non è positivo al Covid, è una figata. Però scusa, io devo lavorare, e perché uno stronzo in un paese circola liberamente mi metto a rischio? Ma scusa, Sì, ma lascia perdere, ma che c'entra? Tu non ho capito, non dovrebbero parlare i negazionisti del Covid, non ho capito bene. Cioè, quelli che sono negazionisti parlano, fanno il cazzo che vogliono. No, dai. Quelli che sono negazionisti devono rispettare la legge di Stato e quindi farsi la quarantena in casa. Sì, ma cosa c'entra? E ma non uscire. Ma quello è diverso, ma se hai il Covid esce un reato, che vuol dire? Tutti. Appunto. Ciao Maria, ciao, hai rotto il cazzo, ciao. Vabbè, ciao. Rompi il cazzo. Tata così chi chiama, ma perché? Piero da Vicenza, avanti tutta, Piero da Vicenza. Perché dai. Tratti così chi chiama le persone? Perché ogni che tanto telefono, mi rompono i coglioni. Ogni tanto mi rompono i coglioni. Ma bisogna avere rispetto Pronto? Delle persone che telefonano. Dimmi. Bisogna avere Pronto? Rispetto. Sì, dimmi. Sì, buonasera Piero. Piero, dimmi. Niente, una cortesia, è due anni Piero. Ti ho chiamato due anni fa. Bisogna avere dopo rispetto. Due anni. Vabbè, che ce ne frega, allora, noi due anni fa. Una cosa, bisogna che avere rispetto parlare, delle persone che chiamano. Il dottor Parenzo che diceva lì di Fedez che quei soldi che rispetto era così imbarazzato perché dava i soldi, ma se uno prende i soldi e ci paga le tasse sopra, gli può dare in beneficenza come gli può dar fuoco. Sono cazzi suoi di fare dei suoi soldi quello giusto, che vuole. Mi correggo. Ho detto prima che bisogna portare rispetto verso le persone che chiamano. Siccome che non ha i mezzi economici per fare quello che mi fa correggo, Fedez, allora parte in quarta dicendo che è che uno che vuole farsi pubblicità. Ma che cazzo stai a dire? Piero, che uno con i suoi soldi fa Piero, quello che su vuole. Su questo non c'è ombra di dubbio. Caro Piero, lei è un idiota, le spiego in 40 secondi. Ma no, idiota, bello per la te e per tua madre, senza per la tua scaldarsi, famiglia, non a me, senza per scaldarsi, senza hai scaldarsi. No? Ho detto idiota, solo che Piero da Vicenza è un idiota, ma non voglio insultare l'ascoltatore. Senza hai scaldarsi, senza scaldarsi. Parlando? Torniamo hai indietro. Capito? Torniamo non indietro. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Infatti è vero. Infatti è vero. Infatti è vero. Non sei un idiota. Infatti è vero. È limitativo. È vero. Infatti è vero, è limitativo. Chiedo, giustamente ti arrabbi perché tu non sei un idiota, sei un coglione, hai ragione, è limitativo. Dirti idiota era limitativo, quindi ti chiedo scusa. Piero, le do un'informazione, Piero. Ma perché degenera tutto? Perché degenera tutto subito? Piero, Piero, tenga presente, un fattore. Parenzo, sabato pomeriggio, è a Padova alle 17 a Lex Sinagoga. Lo trovi? Sinagoga di Padova. Grazie, 17. 18, veramente la seconda. Andiamo in quest'ora sì, mi dice alle 17 a Padova sì, perché alle questo qua non merita di parlare però perché mi sono forse invidioso sì, e mi sono forse sbagliato questo. Ancora una volta chiedo scusa e gli rode il culo perché non hai mezzi mi sono forse i mezzi economici sì, di fare questo non farete il concetto stesso ancora sì. Allora dice una cazzata allora dice così un'altra. Io devo ancora chiedere scusa perché in due momenti ho sbagliato. In un primo momento le ho dato dell'idiota e le chiedo scusa perché è limitativo. In un secondo momento ho detto che lei è un coglione e in realtà ancora una volta vi sono sbagliato perché lei è un gran coglione e quindi le chiedo scusa perché su due volte ho sbagliato, quindi scusi. Io non voglio toccare la sua sensibilità. Piero. Ma lei è un grande testa di cazzo, punto e basta. Piero, scusami, c'è un appuntamento se sabato, piace, però io, stare così. Io non darei, no, non darei, se a lei non darei l'indirizzo. Se a lei non darei piace, se a lei piace un signore multimiliardario che a bordo della sua Lamborghini, dopo essersi fatto dare da soldi, aspetti, dopo essersi fatto ma quale Lamborghini a lei? Ma lei è uno che ha un Lamborghini, non chiama la Zanzara, lei c'ha le pezze al culo, amico mio. Che dici? Ma lei avrà una bicicletta. Ma che cazzo dici? Ma perché? Ma figurati, arricchito in elegante. Ha rubato. Sembra il conte del Fisi. Non ho detto che ha rubato. Scusa, i suoi soldi fa quello scusi, che vuole. Scusi, uno io che mi sono permesso di criticare. 21 milioni per fare le camere delle stati di elezione, lei dice che uno ha rubato. Ancora. Ma è nessuno fenomeno. Ha detto che ha rubato. Lei è un problema. Lei deve andare dall'ottorino alla linguaiatra. Non ha rubato ancora dai. I due. Lei deve andare dall'ottorino alla linguaiatra. Non ho mai detto che ha rubato. Lei ha bisogno di un'ottorino. Venda la sua Lamborghini e si paghi un buon ottorino la linguaiatra. Piero da Vicenza è un arricchito. Ma hai detto che multimilionario, hai detto prima. Ma Fedez sarà ma che multimilionario. So scusami Piero, però voglio capire, tu hai una Lamborghini? Sì. Dunque sei, insomma, sei uno abbiente, sei uno che ha dei quattrini oppure o sbaglio? Io sono uno che sta bene, che ho 61 anni e sono andato in pensione l'anno scorso con 45 anni. E cosa faceva nella vita? Sto ancora lavorando, faccio l'industriale, coglione. L'industriale. Che prodotti fa? Mi faccio capire. Cazzi suoi. No, per capire fa l'industriale. Miei, cosa fa questo elegante io? Imprenditore? Lei cosa appartiene alla Confindustria? Lei appartiene alla Confindustria? Ma figura, no, l'ha cacciato. Non mi sono mai iscritto perché appunto, quella si vede. Massoneria. Ecco, ecco chi difendi. Ecco chi difendi Cruciani, ti rendi conto? Ecco qua, io non ho altro da aggiungere. Scusa, io massoneria non ho altro da aggiungere. Non si può dire che è una massoneria. Non aggiungere. Noi non siamo pagati dalla massoneria. Ma a me basta così. Un attimo, sì. Massoneria per modo di dire, per del modo di dire che l'associazione industriale è un'associazione di direttori, direttorini, sì, e tutto quello che volete, che non combinano un cazzo e prendono un casino di soldi e non arrivano mai alla media finale. Scusatemi però, io vorrei che sia messo agli atti che io, David Parenzo, considero questo signore un coglione al cubo. Posso dirti una cosa, quell'omino lì di basso profilo che forse non riesce neanche a sedere sul batter da quanto piccolo è. Allora ti dico una cosa, io nella mia vita ho fatto il consigliere comunale, giusto? Per capire come gira la politica, ho fatto 9 anni consigliere di banca per capire come girano le banche. Io mi metto dentro nei problemi, non solo da fuori, entro, capisco e decido. Piero, il suo rapporto con le tasse qual è? Mi sembra una volta mi sembra di qualcuno mi ha ricordato che lei è intervenuto una volta sulle tasse, ti stanno sui coglioni le tasse, mi sembra di capire. No, io quando pago le tasse sono contento perché vuol dire che ho guadagnato. Però ti spiego un'altra cosa. Io un socio con di maggioranza. Con che partito ha militato lei? Nessun partito, coglione. Ma scusa, allora, ha detto che ha fatto politica. Tasse, però le spiego. spiego. Io sono socio di maggioranza politico, no? Che si chiama Stato Italiano, sì, che non rischia niente, che preleva solo. Lei vuole un socio così? Qui siamo davanti a un evasore fiscale, secondo me. Una sorella mucca, ma molto mucca. Non ho sorelle. Una sorella mucca, in mezzo a un campo di erba verde, che evasore fiscale, coglione. Qui secondo me, se la Guardia di Finanza facesse una piccola verifica sulla sua macchinetta, quanto è costata? Piero, quanto è costata la tua Lamborghini? Quanto è costata la tua Lamborghini, Piero? Bisogna vedere il modello, il mio è costato 280.000 euro. Sei un caffone, sei. Ma perché? Perché è un caffone? Ma senta, Piero. Ma perché è un caffone? È un caffone. Uno così è un cafonazzo. Un cafonazzo. Uno che chiama e dice: ho la Lamborghini a 200.000 euro. È un cafonazzo. Ma perché? Ma perché? Ma che cazzo sei? Un arricchito cafonazzo. Te lo posso dire. Ma l'ha comprata, no? Se l'ha fatta tutta. E poi, ma scusami, certo. Ma sei un cafonazzo. Ah, non l'hai pagato. E poi ho preso la Lamborghini, tanto per capire che tu sai tutto. L'hai fatta comprare alla società, così hai pagato meno tasse. Appunto. No, Mona, tu e Guardia di Finanza intervieni subito. Cioè, tu hai fatto questo scamo. Ti do anche il numero civico dei miei uffici, non c'è problema. Non c'è problema, grande, perché l'ultima volta che abbiamo avuto un'ispezione della Guardia di Finanza, dopo mesi mi ha detto: signor Novello, se fossero come tutti come lei saremmo a posto, signor, diciamo, non ci sarebbero problemi. Signor, com'è che l'ha chiamata? Signor Piero? Fermi tutti. Ciao Piero, ti abbraccio, a presto, mi raccomando, ciao, non mollare. La Zanzara. Gottardo, sei solo geloso del fatto che tu non avevi manco i soldi per pagarti l'hotel, mentre Fedez può permettere di dare 5.000 euro in contanti. Fai ridere, fai. Gottardo ancora una volta con i suoi moti di gelosia nei confronti di Fedez, solo perché facendo un cazzo si fa notare, mentre lui facendo il clown no. Complimenti. Comunque ragazzi, c'è una divisione quasi generazionale, cioè il pubblico più giovane è tutto dalla parte di Fedez. Fatevi due domande, certo, datevi anche due risposte. E invece il pubblico un po' più adulto. Sai che non lo so se è così, se i giovani sono tutti con Fedez. Moltissimi, almeno quelli che chiamano qua, moltissimi. Io lo sto vedendo dal mio Instagram, da molti ragazzi anche di 20 anni. No, che vabbè, in verità quelli che seguono te sono già vecchi nell'animo, in testa sono vecchi. Cioè due o tre notizie sul virus, però due o tre commentini sul virus. L'altro giorno, non so se vi ricordate, Gigino Di Maio ha detto: vi permetteremo agli italiani, consentiremo agli italiani di vedere i propri parenti, di circolare tra comune e comuni a Natale. Adesso ci hanno quasi ripensato. Ma tu capisci la schizofrenia? Ancora non è ufficiale. Sì, tu pensa chi ha fatto scorta di dentro i locali, no? Perché avevano detto che potevano essere aperti. Lascia perdere, io sto parlando in generale. Avevano detto prima i ristoranti aperti a Natale il 26, eccetera. Sì, quello ci Tu adesso pensa alle persone che hanno preso le prenotazioni. Perché in Germania hanno chiuso, hanno dati i quattrini, molti di più rispetto a quanti, anzi tantissimi di più rispetto a quelli che danno qui. Arrivederci e grazie. Da noi la gente ha preso le prenotazioni, magari ha fatto scorta di viveri, di cibo, altro, eccetera. E siamo ancora oggi nell'incertezza più assoluta. Però, scusami. Cosa, crediamo nella vaccinazione? Ci vogliamo credere? Diciamo che ci crediamo. Io non me la faccio. Io non me la faccio il vaccino, però il governo ci crede. Allora, in Germania i padiglioni sono tutti già preparati, tutti già pronti. Sono le foto dei padiglioni. Ma scusami, se tutti facessero come te sulle vaccinazioni, cosa succederebbe? La Spagna annuncia il via il 4 gennaio. Noi speriamo di partire il 15 e siamo ancora alle foto dei primule. Ma vaffanculo, siamo il paese che ci fanno due palle così sul vaccino, dopodiché non abbiamo ancora pronto un cazzo. Speriamo il 15 gennaio. Poi, vergogna, Giuseppe, vergogna, vergogna. Domanda. ti faccio una domanda. Poi il lockdown della Germania non c'è. Il lockdown della Germania non esiste. Ma non esiste. È una specie di zona gialla più rafforzata. Certo. La gente può circolare da Amburgo fino a Monaco di Baviera liberamente. In casa ci possono stare. Non da un comune all'altro possono. Sì, è così. Guarda, è che così. In Germania. Informati bene. Quello che tu chiami lockdown duro non esiste. Come no? Chiudono i negozi in zona rossa. Chiudono come i noi quando eravamo in zona rossa. No, perché puoi circolare. Come l'Italia. No, perché puoi circolare. Rossa. Daniela Martani, fermi tutti, fermi tutti. Ma come si passa? Oh, mamma mia, ragazzi, allora, da uno squinternato all'altro. Mamma mia che, no, ma scusami. No, voglio dire, già la giornata è stata impegnativa. Lo dice lei. No, lo dice lei. Senza nulla togliere, per carità, adesso ti ascolto con grande piacere. Dico, senza nulla togliere, è stata una puntata impegnativa. Abbiamo avuto una serie di dementi. Guarda, ora concludiamo con la Martani. Su questo argomento siamo d'accordo. Cioè, se l'argomento è Fedez, siamo d'accordo. Cioè, dai, ragazzi, l'ho trovato veramente. Allora, vabbè. Quello che voglio dire è lascia perdere le tue antipatie personali, i tuoi guai con Fedez. Ma io non ho eccetera. Nessuna antipatia personale, no, mi sta no, sto dicendo a Daniela, invece. Sto dicendo allora, a Daniela. A me, sì, no, ma io volevo dire che se mi sta simpatico. Ti dico subito una cosa, che a me lui sia andato il Lamborghini, non me ne frega niente, no, capisci? Infatti, non certo, è la questione dell'Hamburgo, quella della macchina, è la questione del fatto che si sia ripreso per andare a fare beneficenza, certo. Tra l'altro non con i suoi soldi, ma con i soldi dei suoi fans. Ma che c'entra? Quello naturalmente lui utilizza per aumentare il like dei suoi social. Certo. E allora è il suo mestiere, io, allora. È il suo mestiere, allora, il suo mestiere fa quello. Aumenta il traffico sui suoi social. Quindi di conseguenza che cosa succede? Fioccano contratti. Tu devi e sapere, allora, caro mio. E dunque qual è il problema? Allora non ho capito che fioccano contratti. Di... Che certo, problema c'è? Ma vuol dire che non c'è, non è generosità spontanea. Ma la generosità questa, la fa chi studiato. Guadagna, non la fanno i poveracci la generosità. Ma la fa chi guadagna. La gente fa beneficenza senza farti riprendere col cellulare, hai capito? Perché e allora mica c'è il protocollo, mica c'è il protocollo. Senti, ma scusami tanto, mi dici, hanno mai un momento privato questi due? Mai. Ma hanno scelto così, hanno scelto così. Hanno scelto di così fare... perché ci guadagnano, certo. Ci guadagnano un sacco di soldi. Ma dico, guarda, è incredibile, guarda. Durante la pandemia, durante il 27 marzo, vabbè, questo però non è un crimine guadagnare. Una società importantissima dalla quale lui ha ricavato 2 milioni di euro. Vabbè, quello non è un crimine guadagnare soldi, anzi io ho fatto un'altra critica, no, ho detto che è un modo di fare ma indovina quando è successo, quando ha fatto la raccolta fondi per l'ospedale, per l'altro vabbè, privato, quindi neanche positiva, un ospedale però. Pubblico, donando loro 100.000 euro, da cui chiaramente detrarranno le tasse classiche, si possono detrarre. Faranno fai, cose legittime, faranno cose okay, legittime, ma chi, dai ma Daniela. Ma chi se ne frega, ma non hai capito qual è il discorso, è che qui non c'è niente di spontaneo, cioè non è che è un moto spontaneo di generosità di fede, cioè è tutto calcolato, perché lui quello che fa, sì, però... lo fa sempre a favore di social e telecamere. Ma quello è normale, la loro vita è organizzata su questo, vita, ma chi se ne frega? Ma qual è il problema? Non ho capito, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? E aspettano i figli e piazzano le come si chiamano, insomma... Ma qual è il problema? Social e si sposa e fa il matrimonio a mondo visione. Ma non è che sei invidiosa? No, ma allora, scusami ma un attimo. Se tu potessi fare la stessa cosa, lo faresti tranquillamente. Lo faresti tranquillamente. Se tu potessi fare la stessa cosa, lo faresti tranquillamente. Esporre la tua vita quotidianamente ogni secondo. Dai, su, forza. No, allora ti dico io, ok, nella mia carriera sentimentale sono uscita con persone anche importanti, va bene? Ma io non ho mai detto c'entra? Un cazzo quella... di niente, non ho mai chiamato un fotografo. Perché magari ti facevano il culo così. Che io sono uscita con chi ho visto e avrei potuto fare, dire e straguadagnarci, capito? Beh, una volta l'hai detto, queste... una volta l'hai detto che quando sei andata da Vacchi, hai detto pure che c'ha un pacco enorme, che c'ha un... una volta l'hai raccontato, una volta hai raccontato io, che sei andata... Non l'ho detto io, non l'ho detto? Detto io. No, non l'ho detto io, informati bene, non l'ho detto io. No, l'hai detto tu, l'hai detto tu. E quella sera con Cruciani invece che mi raccontavi? Quella sera con Cruciani? Cioè? Così, la ma che cazzo dici? Ma non dire stronzate, non c'è nemmeno. Guardo, ti faccio questo esempio. Se io avessi avuto una storia con Cruciani, no? Avessimo avuto questa storia clandestina, non mi sarebbe convenuto a me dirlo? No, e quello fare non credo, perché se ne si sta dando. No, assolutamente no. Ma che stai dicendo? Secondo me no, per tutti gli altri uomini, secondo sai? Me non mi avrebbero chiamato in televisione per parlare di questa cosa. Sì, questo è vero, la vegana... con un farmista. Ma stai scherzando, sarebbe successo il caos. Ragionando per assurdo. Ma io voglio insinuare. Ma io che insinui, ma non c'è niente da insinuare. Ma che vuoi. Scusami, che scusami, voglio dire una cosa, Daniela. Ma tu hai mai. Sai che cos'è il quiffing? Eh? Sai che cos'è il quiffing? No. Non, sai che cos'è, non, sicuro. Non mi chiedere se. Non, dai, non mi parlare di porcate perché non me ne può fregare. Sarà di una meno porcheria. Cioè, perché, ma te non ti, ha colpito, non ti ha colpito, per esempio, il fatto che Pornhub ha tolto milioni e milioni di video dalla sua library, diciamo così, da internet, perché praticamente contengono anche cose di stupro, cose di questo tipo? Cioè, ah, ma mi sembra minimo. Cioè, beh, per me, beh, non, sì, non ha ragione. Ma non Pornhub è che quelli là, non è che ha tolto un sacco di. Cioè, a te non ti. Pornhub, tu per esempio non lo frequenti, non hai mai visto una cosa su Pornhub? No. Cioè, tu non hai mai aperto Pornhub, incredibile. No, ogni tanto ci vado per controllare se c'è qualche cosa che mi riguarda, ma non perché io abbia fatto qualcosa, ma perché. Lo sai queste cose che sì, che mettono le facce finte, sì, esatto, che mettono le facce finte. Ogni tanto vado a controllare se c'è. Però qualche tu non hai mai visto un frammento di porno su Pornhub, che ne so, con un tuo fidanzato o da sola per masturbarti? No, tu non manco è una cosa che mi attira particolarmente, no? Cioè, esatto. Io trovo una cosa volgare. Il porno è volgare. Sì, per me sì. E sei come Adinolfi. Tu la pensi sul porno come Adinolfi? Il cazzo nella cosa di. Ma che me ne frega a me, scusami. Tutto il mondo si eccita a guardare le scene sesso di altri. Tu sei una da questo punto di vista sei un'eccezione. Guarda che è incredibile questa cosa qua, cioè, la trovo incredibile questa cosa. Tutto il mondo sta lì ogni tanto a spippettarsi le coppie eccetera, a guardare Pornhub, e tu dici no. Sono degli sfigati. Allora, perché per loro il sesso è centrale nella loro vita. Per me il sesso non è centrale. Per me è centrale l'emotività, l'intelligenza. T'ho detto, cioè, te l'ho detto 200 volte. Lo so, l'hai detto così. Risotto, mi fa godere molto di più parlare di cultura con qualcuno. Ti bagni molto più così. Che devi fare? Certo, qualcuno che suona sublimamente il quiffing, la chitarra. Il quiffing è la scoreggia vaginale, si chiama in termini. Schifo, in termini... No, ma non è schifo. È il rumore, ecco, è il rumore che ogni tanto. Tu non hai mai sentito niente dalle tue parti così, no? Non ti è mai successo. Ma secondo te io ti vengo a raccontare queste cose? No, ma è una curiosità. Poi già se era mai successo la Martani, già era capricciante. Ma può succedere? Come chi è che non fa una puzzetta? Vaginale. Può succedere, ma smetti. Ciao Dani, che trasmissione. La zanzara. Ma chi cazzo ci crede che un imprenditore abbia offerto 30.000 euro per farsi dare il culo da una fotomodella di 21 anni, quando a quelle cifre ci sono escort che sono delle visioni paradisiache, dai, un'altra gold digger in radio alla Zanzara, Radio 24, ciao! Come al solito il buon Gottardone ha sempre ragione, quando a una donna scureggia figa è sempre perché la figa applaude. C'è poco da fare, non conta. Se la metti a pecorina, se la metti sotto, se la metti sopra. Se spingi come un dannato, la figa scureggia. Che tu ce l'abbia dello spessore di un pollice o di una lattina di Coca-Cola, la figa, se ti dai da fare, scureggia. Ciao Giuseppe, volevo dirti, ma secondo te, no, se tu dovessi fare una percentuale di donne, sì, una su 100, cioè quanta gente squirta effettivamente? Perché tanta. Da quello che ho capito le mie amiche non squirtano, anzi è un argomento tabù. Perché non? Se gli dici se hanno avuto un orgasmo, loro ti dicono: oh mio Dio, hai avuto un orgasmo. Cioè no, quasi squirta, quindi fammi capire se il problema sono io o le altre. Allora, non so di che parli, di orgasmo, di squirting, eccetera. La questione dello squirting è molto semplice, ne abbiamo già parlato miliardi di volte, ma ribadisco, è una questione potenzialmente, questo sono riuscito ad apprendere in questi lunghi anni, caro Parenzo, è una questione di semplicemente di mettercisi un po' con la testa, diciamo, di impegnarsi un po' con la testa e poi con la mano, lo possono fare tutte. Potenzialmente tutte lo possono forse fare. No. Tutte forse potenzialmente, no. Potenzialmente, secondo me è un 50%. Ma sì. per carità. Tutte probabilmente no. Ma per carità. Patrizia da Milano, avanti tutta. Patrizia da Milano, vai. Oh, finalmente. Dimmi, prego. Allora, dare della testa di cazzo, coglione, pezzo di merda a Parenzo sarebbe ripetitivo. Sì. Buonasera, grazie ma per aver chiamato. Non si può farne a meno proprio. Perché? Proprio... Perché grazie intanto per aver chiamato, perché sono le 20:39 e ha fatto bene a telefonarci. Certo, pezzo di merda. Ma perché? Allora, che è successo? Che è successo? Allora, clima? Allora io sono una ristoratrice. Non ho ancora ricevuto lei, un cosa, ristoro. Che ristorante ha? La tavernaccia? La parolaccia? Sì, la tavernaccia di tua sorella. Cosa fa lei? Gli straccetti? Allora, cosa fa lei? La pasta alla puttanesca? Cosa calma ragazzi, non iniziamo subito, ecco, perché sennò allora, non c'è manco gusto. Allora, l'insulto deve arrivare dopo un po' di riscaldamento, se no altrimenti se uno parte c'è un pezzo di merda. Ma non ho capito su che cosa, peraltro, perché ce l'ha con me. Tanto questo governo? No, non ho detto che lo amo, io lo giudico basso basso. 6.5 gli hai dato, 6.5 io gli do 0 meno meno. Ma scusa Patrizia, spiegami, tu sei ancora chiuso, hai aperto adesso a pranzo o no a Milano? No, perché sono in provincia di Milano, tra l'altro ti ho dato anche il bigliettino da Del Debbio. Ecco la marchetta. Del Debbio, signor Del Debbio. Basta, io non ho altro da aggiungere. Però, vabbè, come presentazione mi basta questo. No, non è mai venuto Giuseppe da me. No, ma mi basta questo. Ma perché non può sapere che lei è al pubblico? Non può andare da Del Debbio dal pubblico? Mi basta, posso dire che vi basta questo? Non voglio approfondire oltre, a me basta sapere questo. Ottimo, ho già capito. Perché tanto da Del Debbio ormai ci sono pezzi di merda, ormai non c'è gente che parla, uno che invita Librandi. Guarda, Librandi è un grande, dai, che c'entra? Librandi dice la sua idea, grande, adesso non è che è un pezzo di merda, pure lui è un pezzo di merda, pure il signor Librandi. Madonna santa, sono un pezzo di merda quello lì. La signora Patrizia da Milano. In Germania e in Francia hanno dato il 75% del fatturato far chiudere i ristoranti. Degli utili, a me non mi hanno dato una lira. Questa ragione. E vorrebbero quanto dichiarava anche... lei? Quanto dichiarava allora, lei prima? Stai dicendo che una... No, quanto dichiarava lei? Tassa. Ma lei quanto io dichiarava prima del dichiaravo Covid? Dichiaravo tutto quello che, sì, che guadagnavo, tutto. Le devono dare in base a quanto lei guadagnava. No, facendo credere. Ho fatto una domanda dritta. Signora Patrizia, lei quanto dichiarava prima del Covid? Che dichiara 340.000 euro all'anno. Bene, quindi bene. Non è un ristorantino del cavolo, certo, va bene? Certo, sarà anche molto buono, evidentemente. Io non ho ricevuto neanche una lira di ristoro. Io adesso i miei dipendenti, in un certo caso saranno anche tutelati, perché ancora non hanno preso la cassa integrazione. Non devi mollare su Parenzo, perché Parenzo ti dice che c'hai ragione. Lui un po' di soldi per vivere, visto che io adesso non guadagno più un euro. Questo molto male, più infatti. Una lira e tu la pigli per il culo. No, io ho detto un'altra cosa. Ti abbraccio, a presto. Ciao Giuseppe. Proprietario di un locale, tu andresti in quel locale, caro David, andresti in quel ristorante? Ma magari anche un ottimo ristorante, quindi sicuramente però ci parlerei dici, con diciamo... il piacere. Però l'approccio che lei ha è un approccio che non mi invita molto ad andare a mangiare lì, è un approccio... Allora, abbiamo con noi, caro Gottardo, caro Parenzo, la mitologica diva del tubo. Eccoci qui, avanti tubo tutto. Ciao. Come stai? Come stai? Quale tubo? Tutto tubo bene, catodico? Tutto alla grande. Ma di sicuro non il tuo tubo. Esatto, ecco. La diva del tubo è il suo nome d'arte. È una mistress, come sapete, perché è stata ospite nostra, soprattutto in un live grandioso. È una mistress money, sostanzialmente una money mistress ed è esperta di decoglionamento. Sì, cioè, un'altra squinternata di livelli altissimi. No, non è squinternata per niente. È che è normale una così. No, una che ama picchiare picchiare sui coglioni, sì. ama e soprattutto ottiene dei soldi picchiando sui coglioni delle persone. Non è lei, squinternati sono quelli che se lo fanno fare, per l'esattezza. Ma ho capito, ma lei non è che la offendi se gli dici così. Quella gode del fatto che alcune persone guadagnano dal fatto che alcune persone. Dopodiché lei è una squinternata, quella che si inventa un lavoro di questo tipo è una squinternata. Ma più squinternata di lei sono le persone che si mettono in questa quella, allora, in quella tu condizione. Che pena daresti al signor Genovese? Mettiamo che sia colpevole di stupro, eccetera, eccetera. Formalmente è ancora, diciamo, innocente, diciamo, no? Fino a prova contraria, però ci sono i bigli, al signor Genovese, Alberto Genovese, quale pena commineresti, per dirla alla Parenzo? Allora, io praticherei un decoglionamento totale. Un decoglionamento totale. Esatto. Cioè, tu uno così che stupra, cioè andrebbe evirato, secondo te? Va castrato e non chimicamente, ma fisicamente, e mi posso anche prestare io stessa a praticare. Mamma mia. Però è una pena, come dire, una pena che appartiene a mondi, a un altro tipo di mondo, caro Parenzo. Non è la culla del diritto, no, la signora diva del tubo. Modo. Ma mi sembra che dalla signora del tubo non ci si può aspettare un tubo, appunto. Tanto però io voglio capire una cosa da te, diva del tubo. Tu hai partecipato, tu fai un altro mestiere, non è che fai la donna immagine, mestiere. Non partecipi alle feste, probabilmente la droga. Non frequenti la droga, magari qualche volta ti sei fatta pure te, no? Io solo lo so, sono cazzi tuoi. No, mai, assolutamente ecco, no. Ma sei mai andata a queste feste? Che tipo di... cioè, allora, no, io non sono mai andata perché io non sono una escort. Non sei una escort e non sei una donna immagine, non fai questo mestiere. Sapendo che cosa succede all'interno di queste feste, questi eventi, mi è capitato di essere invitata a... eventi in barca o nei jet privati, cose del genere, non ho mai accettato, ovviamente. Cioè, non ho capito. Tu, per esempio, non hai mai accettato soldi in cambio di sesso, eppure le combinate di tutti i colori nel passato. Cioè, non è che assolutamente mai. Cioè, la signora, quella di ieri sera che le hanno offerto, la signora Napolitano, che Gottardo si è scandalizzato, che le hanno offerto 30.000 euro per il di dietro, per il culo, sostanzialmente. Sì, racconta lei 15 dai, prima e poi 30. Asseritamente. Tu davanti a una cifra del genere il culo non lo daresti? Guarda, per me 30.000 euro si fanno con uno schiocco di dita con i miei money slave che mi offrono soldi senza niente in cambio. I money slave? In che senso? Scusa, tu quanti soldi si fanno con i money slave? Fammi un esempio. Tantissimi, cifre altissime, che per me 30.000 euro sono niente. In più il mio lato B è vergine. Ma, cioè, ma adesso quindi, no, la diva del tubo è vergine però, in culo, dai, non è possibile che sei vergine. Però, in culo. Asseritamente. Siccome è vergine, potrei lo valutare. Dice lei. Potrei valutare. Io non mi sono mai prostituita, però per un milione di euro di euro. Però ho capito, nessuno nella società di oggi offre un milione di euro per il tuo culo, cara diva del tubo. Potrei anche essere, vuol dire, cara diva. Le do un'informazione, per un milione di euro diamo il culo, io per un milione di euro diamo il culo, io Cruciani e anche Parenzo andiamo a prendere impegni per altri, cioè, non ho capito, tu non prenderesti 333 mila euro per farti fare il culo, Davide, non ho capito, 333 mila per farti fare il culo, non lo prenderesti. No, io lo abbraccio, no, anche, no, quello che mi fa il culo per 333 mila euro sì, sì, la voce registrata, fake news, contraffazione. Scusa, che tipo di party fai? Tu fai parti di decoglionamento, ogni tanto li fai? Allora, o no? Allora sì, ecco, io organizzo dei piccoli party, tipo ad esempio la peripalle in cui gli uomini vengono a farsi decoglionare, ovviamente pagando molto. Ma il tuo quanto costa una diciamo il costo più alto di una pratica di tortura dei coglioni? Cioè le pratiche di tortura allora, che fai te che sono perché? Ma perché la gente ogni tanto è fissata a farsi. Però poi non ti stupire che la gente a un certo punto vota i sovranisti, secondo me. Cioè non puoi. Che collegamento c'è? Ma non c'è nessun collegamento. Chi si fa martellare i coglioni, secondo te, vota a destra, secondo te? No, a destra in generale. Beh, vabbè, insomma, sì, che stavi dicendo, Diva? Ipotizzabile. Allora, io faccio video di decoglionamento, video. Quindi lo pratico con i miei schiavi fidati, con i miei attori, e poi vendo questi video. Quindi non incontro sconosciuti che mi pagano, anche perché può essere molto pericoloso, come abbiamo visto in questo caso. Cioè tu vendi dei video, quindi, cioè non è che ti... Esatto, esatto. Nel contesto degli aperipalle, sono ovviamente con tutto il mio staff, le mie amiche mistress, il primo aperipalle l'ho fatto con la Marika Bentley, che voi conoscete. Sì, come no, certo. E che succede in queste aperipalle? Per entrare alla aperipalle bisogna pagare molto, cifre... 500, 1000 euro per poter accedere e prendere calci nelle palle. Calci nelle palle e anche, okay, e anche farsi inculare, immagino, con degli strapponi. Allora, io no, poi se magari le mie amiche mistress fanno piacere, io preferisco dare calci. Decoglionamente, tu preferisci torturare, esatto, torturare, esatto, lo scroto, torturare lo scroto. Esatto, e all'interno di questo per i palle come buffet ci sono solo cibi a forma di palle praticamente. Pure. Ma tortura, sì, assoluta. Però io mi stupisco che con la tua vita, diciamo, che è passata un po', diciamo, dal campo, non dico, forse anche del porno, adesso non mi ricordo nel anche, passato. Un curriculum vita è ricchissimo. Solo fetish, sì. Solo fetish, eccetera, solo eccetera. Fetish. Mi stupisco che tu sia vergine analmente, soggettivamente. Frega, questa cosa qui non è anche, è difficile anche da provare, caro Gottardo, no? È anche rara, certo, certo, è sì, figurati. Dosi, per questo che vale 1 milione di euro. No, però 1 milione non te li dà nessuno, secondo me non ti danno nemmeno. Però uno potrebbe dire 50.000 euro, secondo me no, tu... no, no, no. Italiani! 50... Fine, dai, no, via, no, finito, chiuso. 50.000 euro li faccio spennando il mio money slave. Cioè... Ah, col tuo money slave, benissimo. Capito, fermi, ho capito. Via, via, basta, chiuso, finito, per fortuna. Grandi cifre senza dare nulla in cambio, perché dovrei dare il culo per 50.000 euro? Il culo per 50.000 euro, no, se tu guadagni in un altro modo, effettivamente il culo, esatto, vale. Però 1 milione non ci arriviamo, ma fermi tutti, perché c'è una sola frase da dire a questo punto, Parenzo. E qual è? E qual è la frase? Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.